Ondivago, un programma ideato e condotto da Max Ponte, alla parte tecnica Alessandro Gianotti. Ondivago.com. Ondivago ospita in questo numero Federica Farini per parlare di astrologia. Ma non semplice astrologia come spesso troviamo sui giornali. Ondivago affronta l'astrologia applicata agli animali. Incuriositi da questo fenomeno, ne abbiamo parlato con la diretta interessata. Siamo stati a Milano e fra i rumori della metropoli abbiamo trattato il tema in un caffè cittadino. Anche gli intellettuali più snob non disdegnano di aprire l'oroscopo di una rivista come Internazionale per ritrovare qualcosa di loro stessi. Ondivago apre l'oroscopo degli animali e dai cani vorrebbe passare rapidamente agli altri quadrupedi, tra cui elefanti, giraffe, vari tipi di insetti. Ma lasciamo la parola a Federica Farini per sapere come si diventa astrologa degli animali? Nel suo caso pare trattarsi di una vera e propria vocazione. L'astrologia, sì, ok, ci sono tante persone che fanno astrologia in TV, alla radio, eccetera. L'astrologia applicata agli animali da che cosa nasce nella tua vita personale? Cioè, avrai avuto un momento in cui ti sei illuminata al mattino e pensato di venire, ti è caduto il cane nella vasca da bagno con un... L'ho salvato grazie all'influsso delle stelle. È stato un evento che ti ha portato. Sì, allora, l'evento, come tutti gli eventi collegati all'astrologia proprio nella mia vita, il significato che ha l'astrologia nella mia vita, faccio un passo indietro, parto da lontano. Le maestre dell'asilo si ricordano che io chiedevo il segno zodiacale e quando ogni tanto è capitato che incontrassero mia mamma per strada, ah ma come sta la Federica, come va, ma ci ricordiamo, era così carina, ci chiedeva sempre che segno zodiacale ero. Quindi parte da lontano. E casualmente, come è successo quando ho iniziato a collaborare, a fare oroscopi per delle riviste indipendenti, comunque tipo in Svizzera, la mia prima esperienza è stata in Svizzera con un giornale, un free press, che è nato come il nostro Leggo, se vogliamo paragonarlo, per caso, perché un mio amico arriva e mi dice avrei un'idea, vuoi collaborare, a me piaceva l'astrologia, per caso, è come il destino se ci fosse una linea che ti guida. Nel caso degli animali, partecipando a questo progetto di aggregazione per appunto gli animali che vengono un po' idealizzati, resi idea per contenitore di eventi, a un certo punto ricevo questo invito per partecipare a questo evento di aggregazione animali, padroni, in una location molto interessante a Milano, quindi in una hall di un hotel molto famoso, un concept completamente nuovo. Ho un'illuminazione, come sempre mi capita, mi sono vista fare l'oroscopo a queste persone con i loro animali e da questo insight, perché poi l'illuminazione, l'insight è improvviso, ho scoperto tutta la semplicità di quest'idea e la facilità di realizzarla, perché in fondo chi studia astrologia sa che l'astrologia è una continua scoperta e una continua interpretazione di segni, di archetipi che ci raccontano quello che rappresenta una posizione zodiacale, un astro, un influsso. E quindi a quel punto, pensando a questo evento, io mi sono visualizzata all'interno di questo hotel parlare ai padroni e parlare ai padroni del loro animale in base al loro segno e in base alle relazioni che i padroni avevano con l'animale all'interno della famiglia, con altri membri della famiglia. Quindi è stato molto facile. Ma come hanno accolto le persone accanto a te questo tuo È stato strepitoso e io ho capito in quel momento che forse questa astrologia per gli animali, da una parte per me a livello personale, diventava non solo una scoperta ma un modo per avvicinare le persone a me, ma che forse i tempi non erano ancora pronti per accogliere, sviluppare quest'idea che io invece porterei avanti con molto interesse. (Ride) Nel momento in cui io ho iniziato a fare questo esperimento, perché l'astrologia, ripeto, è un'interpretazione, se la si interpreta per un essere umano, i livelli di interpretazione sono differenti, ovvero molto più profondi, perché si può parlare di amore, di lavoro, di relazione, anche di vite passate, di karma, quindi di tutto quello che c'è stato prima di questa vita. E ovviamente l'essere umano, che è il più razionale, io non direi intelligente, il più razionale di tutti gli esseri, può essere razionalizzato. Dell'animale possiamo scoprire la sua indole, il suo istinto, essendo comunque un animale meno evoluto, a che livello possiamo studiare la sua interazione in astrologia con i suoi affetti. Quindi l'astrologia diventa uno strumento per dirci come interagire, che tipo di carattere ha, se in quella giornata le stelle sono a favore o non lo sono, se può avere anche delle sensibilità a livello fisico, quindi bisogna stare attenti all'alimentazione, bisogna stare attenti a come ci si pone nei confronti dell'animale per non avere magari una reazione imprevista, o una morsicata o una graffiata, ma anche come capire semplicemente l'empatia diventa poi, come a me piace definire, nell'astrologia per gli animali, una astrologia etologica, cioè che studia il comportamento del nostro animale, diventa uno strumento in più di interpretazione. Ti faccio un esempio. Siamo nel periodo dell'Ariete, quindi una costellazione carica, e addirittura si dice che il Sole, quando la costellazione dell'Ariete entra nel suo, appunto, nel suo periodo, il Sole rinasce nel senso diventa a livello di radiazioni più potente rispetto alla tranquillità, alla calma, alla pacatezza dell'inverno, e le radiazioni, il Sole, le sue stesse emanazioni sono più forti, quindi la vita riprende. Gli animali che nascono in questo periodo e sono quindi, cadono sotto il segno dell'Ariete, hanno un'indole energica estremamente carica ed estremamente a volte dispersiva, quindi è importante che il padrone capisca come riuscire ad interagire con un animale che a volte può sembrare quasi ostinato e quasi difficile da gestire. In realtà è un animale buonissimo, perché l'elemento fuoco dell'Ariete caratterizza la sua socialità, la sua anche socialità e socievolezza, il suo amore per soprattutto la famiglia, perché è un carattere forte. Marte è il pianeta dominante, è il dio della guerra, e quindi questo animale a volte si porrà in una maniera forse di scontro quando non viene ascoltato, però in realtà attacca a volte solo per difendersi. Quindi gli stessi caratteri, se vogliamo, che riscontrati nell'essere umano vengono trasposti, adattati sull'animale. Assolutamente adattati, perché sempre per l'Ariete, visto che siamo nel periodo, perfetto, quindi è perfetto, ti dico questa cosa, molto simpatica. Il cane, il gatto anche, però io lo vedo molto di più nel cane, l'energia, la voglia di fare, è un animale che richiama attenzione. Quando non lo si ascolta, incomincia ad abbaiare, e spesso e volentieri anche nella vita pratica mi è capitato, io ho una cara amica che ha un bassotto simpaticissimo, quando noi siamo seduti al bar e stiamo magari mangiando e c'è anche il cane a un certo interviene. Punto si stufa, ci guarda e incomincia ad abbaiarci, come per dire io voglio andare adesso, basta. È un animale volitivo, suggerito per il padrone indipendentemente dalla razza. Adesso facciamo l'esempio del cane, io suggerirei delle attività che lo facciano sfogare, quindi ci sono dei bellissimi corsi di agility, che sono le gare che i cani fanno con i loro padroni, dei percorsi un po' al limite con tra il gioco e lo sportivo, al limite con la competizione. Sono delle gare dove comunque un cane dell'Ariete potrebbe impiegare la sua energia vitale in una maniera molto positiva, e quindi entrare in un progetto con il padrone, realizzare questo progetto che può diventare un fine comune. Ad Ondivago, Federica Farini, ondivago.com. quindi il segno anche zodiacale cosa ci dice? Per esempio, sempre dell'Ariete, attenzione, perché questo cane o questo animale, il gatto vive un po' più da casalingo, quindi è meno soggetto, essendo anche più pigro per il tipo di vita che fa, è meno soggetto alla gestione di questa energia. Ma attenzione, perché il cane Ariete è portato a scontrarsi con gli oggetti, a farsi male, perché è portato a volte a non avere attenzione e a sbattere quella che può essere la testa, le zampe. Quindi siate attenti, padroni, cercate di fare sfogare il vostro animale, di fare sfogare il vostro cane e di capire molto spesso, di ascoltarlo, perché essendo un animale dominante, nel momento in cui non viene ascoltato e non viene non gli viene data attenzione, si sente un po' negato quello che è l'affetto che lui in realtà vuole dare. Lui vuole proteggere, come se fosse il capo famiglia. Quindi cercate di ascoltarlo, di interessarlo con il gioco, a seconda poi del segno zodiacale del padrone. Non entrerà in conflitto con voi e sarà un animale veramente molto quindi affettuoso. Questo è un esempio, diciamo, di lettura. Da partire dai giorni nostri dell'Ariete. Esatto. Bene, e perché fra i vari animali, volendo io, facevamo l'esempio, potrebbe essere anche, applicato un ornitorinco, non so, una rana. Cioè, assolutamente. Poi noi abbiamo scelto il cane. Abbiamo scelto il cane perché è una dimensione animalesca che entra più in relazione con l'essere umano. Ma volendo, cosa è importante per lo studio dell'astrologia? È importante la data di nascita. Ovviamente della rana forse non avremo la data di nascita, anche dell'ornitorinco, ma indicativamente il veterinario, direi più per l'ornitorinco, ci potrebbe dire in che periodo è nato. Quando non si ha una data di nascita, che è importante per capire come erano disposti i pianeti nel cielo in quel giorno, in quel mese, in quell'anno, e sarebbe possibile, difficile per gli animali avere l'ora esatta di nascita. Nel momento in cui si ha l'ora, si può essere ancora più precisi nello studio del carattere. A volte dici anche per gli umani che non se lo ricordano. Esattamente. Più la mamma, e quindi a quel punto interviene l'estratto di nascita, ma non avendo un'ora di nascita, anche perché molti animali sono selvatici, sono dei trovatelli, il periodo, se riuscissimo a capire il periodo, si riesce a capire se un ornitorinco all'ornitorinco, anzi, per me è una sfida e una vocazione, perché voglio capire se l'astrologia può trovare un riscontro sempre simpatico, sempre curioso, di gioco e di scoperta, mai di previsione. Ovvio, non mi piace. Il tuo progetto sta andando benissimo sulla vita e sulla passione che gli italiani hanno sui cani, infatti tu fai dei programmi anche questa Radio Bao. Che come si dice, tutto avviene mai per caso, quindi l'interesse che... Quell'impegno. Sì, con l'impegno e con la passione è vitale. Perché se non si ha un obiettivo, ma soprattutto non si crede in ciò che si fa, credo che non si riesca ad andare lontano. La passione... Questa è un'etica molto milanese. Però la passione... No, noi la sosteniamo, l'etica. La sostieni? Io certo, metto il cuore in tutto ciò che faccio. Io non potrei mai fare l'avvocato, perché difendere una persona colpevole di qualcosa non mi farebbe credere in quella persona, io non potrei mai essere credibile nel difenderla. Posso essere invece credibile nel cercare di raccontare attraverso una dei vocazione, simboli, diciamo, esatto, che alla fine siamo davanti a una vocazione, a una vocazione artistica, chiamiamola così. Saranno dei magi, ma poi anche grandi intellettuali che seguono poi alla fine l'astrologia su internazionale. Molto interessante. Tutti quanti poi alla fine vanno a vedere l'oroscopo su internazionale. Internazionale, allora, filosofico, perché, esatto, ha un'impronta filosofica. Fatto anche bene l'oroscopo. Molto bene. Non vedo perché noi ad Don Diva non dobbiamo occuparci dell'oroscopo. Occupiamocene anche per i cani o per gli animali che poi diventeranno i più strani, anche gli insetti, le formiche. Io arriverò assolutamente con delle formiche, studiamo queste formiche, mettiamo in una teca delle formiche senza rosse, che soffrano. Rosse, okay, già un po' più aggressive, quindi hanno già tutto un imprinting, esatto, sicuramente con un imprinting già definito, perché poi anche la razza e la specie interviene nel dare un significato, perché nel caso dei cani alcune razze sono già, hanno già un carattere orientato verso un tipo di atteggiamento, per esempio i cani da guardia o le razze che sono portate alla difesa, no? Un cane che è portato alla difesa come un Doberman e magari dell'ariete può maggiormente sviluppare questa caratteristica di comando e di aggressività, e quindi in quel caso l'astrologia ci dà un mezzo per cercare di incanalare questo comportamento in una maniera positiva e vedere magari un padrone con un Doberman che sembra un chihuahua a livello di carattere, di dolcezza, di interazione, che comunque non è né aggressiva né difensiva. E il progetto dell'astrologia applicata all'universo degli animali è anche uno strumento per avvicinare le persone. Nel caso della radio, per avere delle persone che si affezionano e che vogliono avere dei consigli per loro stessi, perché molto spesso i padroni chiedono poi anche di loro, vogliono sapere di loro, del loro periodo, quindi l'astrologia è sempre un fattore di aggregazione. Ad Ondivago, Federica Farini, ondivago.com. Entrando in relazione con gli animali, questo diventa uno strumento anche di conoscenza tra le persone e un vero e proprio contenitore. Descrivici un evento che hai realizzato, al quale hai partecipato, che è riuscito bene, come si chiedono alle star qual è stato il tuo miglior concerto dell'anno, eccetera. Non so, qualcosa che si è distinto per il movimento degli esseri umani, sì. L'interazione fra gli esseri umani. Allora, questo evento che è stato realizzato a settembre del 2012, Dogfather era il contenitore, quindi questo progetto di aggregazione in questo hotel molto famoso a Milano, che ha aperto le porte, forse vedendo nell'interazione con gli animali anche una sorta di evento un po' diverso dal solito, originale, di rottura anche con gli schemi, un grande hotel che apre le porte a una carica. Poi oggi discute molto sull'accessibilità, esatto, degli animali nei luoghi pubblici, e si è anche un dibattito assolutamente, un dibattito anche, se vogliamo, non voglio dire sociopolitico, però sicuramente importante. C'è, no? Il Salone del Libro che ha dichiarato recentemente di essere, insomma, pet friendly, si dice. E questo è importantissimo, hai già trovato il termine. È giustissimo, hai già trovato l'elemento chiave. Proprio l'immagine del cane nel logo, tra i vari luoghi del Salone del Libro, che è dove io posso entrare. Assolutamente, e questo grande hotel, non so se possiamo dire il nome, per non fare Park Hyatt, è un hotel molto importante che si trova tra il Duomo, la galleria. Descrivilo, insomma, che cosa. Allora, è un hotel di design, quindi riesce a, come concept, a sintetizzare sia la modernità, e quindi un ambiente che non sia, pur essendo un albergo storico, datato, e quindi con quell'aria un po' magari barocca, troppo carica, più essenziale, con degli spazi più fruibili. E la dimostrazione è stata l'organizzazione provvidenziale, devo dire, di questo evento, che ha dato modo sia all'hotel di dimostrare che era in grado di allestire un tipo di evento differente, attuale, perché comunque questa tematica è attualissima, e soprattutto di stupire anche i partecipanti, perché dovete immaginare che questo hotel, nella sua hall, ha aperto tutte le porte, essendo poi anche ad angolo, e l'angolo dava sulla galleria Vittorio Emanuele, quindi eravamo in pieno centro, allestendo una sorta di carpet di sfilata all'interno della galleria, dove i cani e i padroni intervenivano insieme in una sfilata sempre con una finalità divertente, ludica, e quindi di intrattenimento, dove spesso magari gli animali e i padroni, a volte i cani erano anche vestiti con questi cappottini realizzati anche poi da designer di moda, perché anche il design e anche il mondo della moda si è adattata a questa tendenza, la realizzazione quindi di questi vestitini e la sfilata stessa dei cani, accompagnata a un aperitivo con della musica, ovviamente in una hall di un albergo, quindi un evento mondano, dove esatto. Interveniva la radio, quindi Radio Bau, dove intervenivo io e dove l'intrattenimento si basava su proprio una forma di quasi di spettacolo nella serata live. Quindi intervistavamo gli ospiti, le persone che erano lì, chi voleva farsi fare l'oroscopo, chi voleva avere dei suggerimenti, veniva proprio intervistato. E ovviamente c'erano padroni che magari preferivano avvicinarsi in forma privata e chiedere magari: ah, il mio cagnolino si accoppierà, posso trovare la compagna ideale? Questo sarà, esatto. Piuttosto che ho appena comprato questo cucciolo, vorrei sapere un po' cosa dicono le stelle del suo carattere, cosa posso fare io per lui. Una sorta di consulenza in fase di aperitivo. Assolutamente, in fase di aperitivo. E poi lo spettacolo, perché ovviamente facendo intervenire anche la radio, diventava una sorta, se ti ricordi, il programma Colpo di Fulmine, dove la Marcuzzi andava a fermare le persone per strada cercando di accoppiarle, diciamo. Noi fermavamo tipo le persone, coppie, esatto, fermavamo le persone nell'hotel, ma erano poi le stesse persone che vedendoci comunque realizzare questa sorta di gioco interattivo venivano quasi catturati. Si sono divertiti molto, diciamo. Ci siamo divertiti. Veniva dato un aperitivo? Assolutamente. Racconto questo dell'evento. L'evento è studiato a 360 gradi, quindi partecipa sempre questa cuoca a sei zampe, come la definiamo noi, che suggerisce, se non è lei stessa a cucinare, perché ovviamente a volte non è possibile, lei interviene come ospite, ma realizza delle vere e proprie ricette che possono essere fruibili per il padrone e per il cane. Quindi il buffet era un buffet a sei zampe, era un buffet per i cani e per i padroni, e le ricette venivano anche spiegate e raccontate, perché non è tutto così scontato, e c'è anche una parte di design, una parte di creatività che viene messa poi nell'esposizione di queste ricette. I cani erano molto contenti, perché in questo tripudio di creatività c'era chi mangiava, c'era chi correva, c'era chi abbaiava, c'era chi comunque... anche le persone che passavano i passanti venivano attirati da questo contesto, perché incuriositi da questo scenario molto diverso dal solito e anche molto rumoroso, però quel rumoroso bello, quel rumoroso che fa molta simpatia. Abbiamo ascoltato l'intervista a Federica Farini sull'astrologia animale. Trovate informazioni su di lei e sulle sue varie attività all'indirizzo www.federicafarini.it. Interviste, puntate alla radio e in TV sul mondo animale e gli astri. Che cosa ne pensate? Qual è il vostro pensiero su questo fenomeno che un divago ha affrontato? Scriveteci e postate i vostri commenti su Facebook. I miei più astro-giraffici saluti, Max Ponte.